pazzi e quale scegliere ancora non so. Scegliere l'uno, scegliere l'altro, questo è il problema che ho. Scegliere l'uno, scegliere l'altro, questo è il problema che ho. Uno è bruno, occhi neri e ha lo sguardo dolce. L'altro è biondo, occhi azzurri e mi piace un mondo. Ci sono due che per me vanno pazzi e quale scegliere ancora non so, ed io rimando giorno per giorno la decisione che prender non so, ed io rimando giorno per giorno la decisione che prender non so. Quale scegliere ancora non so, sono indecisa e una mia amica che era indecisa mai più si sposò, sono indecisa.